Iniziamo magari, buonasera a tutti, benvenuti all'ultima serata del nostro primo ciclo di Scuola Genitori. L'associazione AGE è molto soddisfatta di come sono andate le cose fino adesso, speriamo tanto che anche voi lo siate, e questa sera chiudiamo proprio in bellezza con un tema che è molto sentito da tanti di noi. E con noi c'è la dottoressa Katia Delghi, a cui auguro buon lavoro e benvenuti ancora a tutti. Buona serata. Allora, intanto buonasera a tutti. Mi sentite là in fondo? Ok. Sono davvero contentissima di essere qua. Sapete perché? Perché parlando con i miei colleghi che mi hanno preceduto, tutti sono tornati a dir poco entusiasti della serata passata con voi. E quindi veramente non vedevo l'ora di andare a Mondovì, di venire qua, perché dicevo anch'io voglio vedere questa situazione. Oggi è l'ultima serata di questo ciclo di incontri formativi e spero che ognuno di voi abbia potuto vivere questo percorso in modo positivo e in modo costruttivo, seppur credo con la fatica che qualcuno inevitabilmente avrà vissuto nel vivere il percorso, anche perché credo che sia inevitabile una dose di fatica nel momento in cui si decide di iniziare un percorso di riflessione. Vi dico due parole su chi sono, giusto per inquadrarmi. Quindi io faccio parte anch'io dell'associazione Parvus e quindi collaboro con il dottor Aceti e con tutti i colleghi che avete visto prima di me. Ci sono altri colleghi, in totale siamo 8-9 colleghi, e voi ne avete conosciuti 4, no, tranne la dottoressa Elisa Stani che non aveva potuto venire. Di cosa mi occupo? Io mi occupo di clinica in particolare, quindi lavoro con gli adulti, diciamo dall'adolescenza in su, quindi adolescenti e adulti, ma non mi occupo solo di clinica e quindi di cura, mi occupo anche di prevenzione, tant'è che lavoro e lavoriamo anche i miei colleghi, gran parte dei miei colleghi, nel contesto scolastico, nel contesto formativo anche. Quindi dico non a caso, sono a un certo punto nel mio percorso professionale, mi sono ritrovata a lavorare anche nell'ambito scolastico e formativo, dico non a caso perché credo tantissimo nella prevenzione. Quali sono gli obiettivi di stasera? Ne ho in sostanza due obiettivi con voi, sono venuta qua con due obiettivi. Uno che è quello di costruire qualcosa insieme a voi in termini di se ognuno di noi stasera uscirà da qua con un qualche cosa da portarsi via, un qualche cosa su cui riflettere all'interno della propria quotidianità, io uno dei miei due obiettivi l'avrò raggiunto. E questo vale anche per me. L'altro obiettivo è quello di soffermarsi a conoscere un po' più da vicino che cosa vuol dire vivere da adolescente e quindi conoscere tutte quelle dinamiche intrapersonali e interpersonali che in questa fascia di età intercorrono nell'individuo. Perché questo obiettivo? Perché mi rendo sempre più conto che i genitori di ragazzi e adolescenti in questo periodo vanno a volte in ansia, vanno in tilt letteralmente certe volte, perché la non conoscenza manda le persone, manda i genitori a volte in ansia. E quindi credo che sia assolutamente importante per un educatore, per un genitore, conoscere quelle che sono le dinamiche che intercorrono nell'adolescente per riuscire a cogliere quando una reazione, un comportamento, un atteggiamento, un modo di pensare, un modo di vivere certe emozioni può rientrare appunto nella normalità dell'adolescente, quando invece potrebbe farci suonare invece un campanello di allarme. Allora, iniziamo un po' col definire che cos'è l'adolescenza. Allora, l'adolescenza è un ponte, una sorta di ponte di passaggio tra due fasi evolutive, che sono la fase del bambino e la fase dell'adulto. Quindi l'adolescente, che è colui che sta crescendo, sta nel mezzo in sostanza. E stare nel mezzo vuol dire vivere un processo sia biologico, quindi fisiologico, ma anche psicologico. È un processo che ha degli effetti sociali, emotivi, psicologici molto, molto rilevanti. Talmente rilevanti che comporta quindi tutta una serie di cambiamenti, io dico cambiamenti a 360 gradi all'interno dell'individuo, cambiamenti che vanno dalla fisicità alla parte cognitiva, quindi come struttura di pensiero, cambiamenti che riguardano la sfera delle emozioni, cambiamenti che riguardano la sfera delle relazioni. E questa sera cercheremo di mettere insieme un po' tutti questi vari aspetti. Per noi adulti, mi rendo sempre più conto che quando mi guardo attorno e parlo con gli adulti, scopro un po', non scopro, ma osservo che per l'adulto spesso sembra, appare una realtà normale quella che vive l'adolescente. In che senso? Cioè, appare normale che un corpo a un certo punto evolva, si sviluppi, si trasformi. Appare normale agli occhi di un adulto che a un certo punto possiamo anche, non so, litigare magari col miglior amico, con la miglior amica, che un ragazzo può essere magari lasciato dalla fidanzatina piuttosto che viceversa, eccetera, eccetera. E spesso quando osservo o ascolto certe frasi che arrivano dagli adulti, mi sento dire: ma sì, ma cosa vuoi che sia, su, dai, non casca al mondo, su, anche se hai perso una ragazza, su, te ne farai un'altra, hai una vita davanti. Non perdiamo mai di vista che il punto di vista dell'adulto è molto, molto diverso dal punto di vista dell'adolescente. Ma allora voi vi chiederete: ma come si fa però a sapere qual è il punto di vista di un adolescente, qual è il peso che un adolescente può dare da un punto di vista cognitivo e da un punto di vista emotivo a una determinata situazione? Come si fa? Lo si può conoscere, questo punto di vista, soltanto entrando dentro la persona. In che senso? Cercando di capire quello che avviene all'interno di quella persona, di quell'adolescente, da un punto di vista di pensiero. Qual è la struttura di pensiero di quel ragazzo, il modo di pensare, quindi qual è il modo di reagire emotivamente e quindi di reagire da un punto di vista comportamentale? Vuol dire quindi conoscerne le dinamiche che avvengono all'interno, ma non solo teoricamente. Io dico agli adulti, mi capita spesso di dire questa cosa ai genitori quando ho l'occasione di parlare ai genitori, io dico a loro e dico a voi questa sera: anche noi siamo stati adolescenti, vero? Caspita, ci siamo passati tutti, tutti, nessuno escluso qua dentro. E se ci fermiamo un istante a pensare a quelli che erano i nostri pensieri, i nostri modi di reagire davanti a determinate situazioni, l'intensità con cui vivevamo le emozioni, con cui mettevamo in atto determinate reazioni di comportamento, se solo ci fermassimo un attimo a pensare, potremmo essere dei maestri per i nostri ragazzi. E invece cosa succede all'adulto che diventa genitore di un adolescente? Ve l'ho detto poco fa, va in tilt. E questo andare in tilt, ovvero andare in ansia, porta l'adulto a centrarsi su di sé, perdendo di vista l'adolescente. Io so che il dottor Aceti e poi la dottoressa Staffiero e poi è arrivato Luca Avellis, tutte e tre vi hanno parlato di relazione empatica, vero? Ve lo accenno. Perché ve lo accenno? Perché per poter entrare dentro una persona e conoscere una persona occorre ascoltare quella persona non con le orecchie e basta, ma con le emozioni. Quindi occorre mettere in atto quello che si chiama ascolto empatico, che vuol dire riuscire a sentire dentro di noi risuonare le emozioni della persona che ci sta davanti, senza ovviamente perdere di vista che noi siamo noi e l'altro è l'altro, siamo due persone, due entità differenti, ma se ci poniamo in ascolto empatico le sentiamo dentro le emozioni dell'altro. E vi assicuro, non so se nella vita vi è mai capitato di provare esperienze di essere ascoltati empaticamente piuttosto che essere ascoltati in modo superficiale, come dico io, cioè solo con le orecchie. A me è capitato e vi assicuro che c'è una differenza abissale. L'ascolto empatico crea relazione, l'ascolto empatico avvicina la persona, fa sentire che la persona che ci sta davanti è lì, disposta ad accoglierci, disposta ad ascoltare quello che stiamo vivendo, crea fiducia nell'altro. Io sono convinta che l'essere umano può essere educato in mille modi, sotto mille aspetti, tutto si educa alla lettura, alla scuola, si educa all'amore, si educa a crescere, si educa quindi a diventare adulti con la maiuscola, non adulto in termini di maggiorenne, maggiore età, ma adulto con la A maiuscola, dove per adulto con la A maiuscola intendo un individuo che diventa autonomo nella vita, che diventa responsabile di quello che pensa e di quello che decide di agire, diventa una persona libera di pensare con la propria testa, libera cioè dal condizionamento esterno. E oggi se guardiamo fuori, nella società che c'è fuori, caspita quanto è difficile non essere condizionato da quello che ci gira attorno, e questo vale anche per noi adulti, figuriamoci per i ragazzi. Diventare adulti però vuol dire anche essere liberi di sbagliare. Io non so quale sia la vostra opinione riguardo della perfezione, vi dico la mia però. Io sono straconvinta che la perfezione sul mondo terrestre a livello di esseri umani non esiste. La perfezione, se voglio cercare la perfezione, guardo un po' più in alto, guardo lassù e là sicuramente c'è la perfezione. Ma qui sulla Terra l'essere umano non è perfetto. Io non ho ancora conosciuto in tutta la mia vita una persona che possa essere definita perfetta. Quindi vuol dire che è imprescindibile che nel corso della vita, chi prima, chi dopo, possa arrivare a sbagliare. Questo vale per gli adulti e questo vale per i ragazzi. Educare un ragazzo, un individuo, anche ad accettare l'errore, vuol dire che lo state educando alla ricerca della non perfezione, perché non esiste la perfezione. Vuol dire educarlo a imparare ad accettare che anche lui sbaglia nella vita, e quando accettiamo l'errore non abbiamo bisogno di buttare addosso agli altri la colpa. Chi non accetta invece il proprio sbaglio mette in atto quello che in psicologia si chiama, è un meccanismo di difesa, si chiama proiezione. Si proietta sull'altro un proprio errore, una propria colpa. Chi accetta invece di sbagliare evita, può evitare di proiettare. Educare all'errore non vuol dire però giustificare ogni cosa, vuol dire educare la persona a imparare a cogliere dall'errore la possibilità di non sbagliare più o di non sbagliare in modo sistematico, capire perché a un certo punto nella vita ha sbagliato, capire che cosa avrebbe potuto fare di diverso per evitare quell'errore. Vuol dire in sostanza porsi nei confronti dell'adolescente, del figlio in generale, come base sicura. Cosa vuol dire? Ve la spiego citando una parabola che a me piace tantissimo, una parabola del Vangelo che è la parabola del figlio il prodigo. Cosa fa questo figlio? Ripetutamente sbaglia, ripetutamente sperpera soldi e quando arriva a non avere più un soldo in tasca, nella disperazione, a chi pensa? Al padre. E dove va? Dove ritorna? Alla casa del padre. E questo padre cosa fa? Avrebbe potuto chiudergli la porta in faccia se non avesse accettato la possibilità di suo figlio di sbagliare. E invece no, apre la porta e organizza pure una grandissima festa a questo figlio. È questa la base sicura. Che non vuol dire giustificare e permettere continuamente di sbagliare, ma vuol dire essere capaci di accettare l'errore, essere capaci di non etichettare un proprio figlio perché sbaglia, essere capaci di essere lì, pronto ad accogliere un proprio figlio e di aiutarlo a capire perché ha sbagliato. È un po' come la base sicura, è un po' anche spiegabile con la scena del bambino piccolo quando impara a camminare. Cosa fa un bambino piccolo quando sta per compiere i primi passi? Si stacca dalla mamma e dal papà, si allontana dalla mamma e dal papà, però ogni tanto si volta indietro e vi cerca. Cerca la mamma e papà là in fondo alla stanza magari. Perché? Perché se vi vede lì si sente sicuro di allontanarsi, perché sa che nel momento in cui si dovesse perdere l'equilibrio, voi, la mamma e il papà, siete lì pronti a sorreggerlo. È questa la base sicura. Così quindi, come può essere importante il perdono, è importantissimo anche quindi a questo punto la capacità di saper chiedere scusa. Quante volte, vi assicuro, quante volte mi capita di vedere nei colloqui, ma non solo, di sentire da genitori che pretendono delle scuse dai propri figli quando sono loro i primi accidenti a non saper chiedere scusa. Come facciamo a pretendere che i nostri ragazzi sappiano venire verso di noi e chiedere scusa, a non mancarci di rispetto quando magari siamo noi i primi a non chiedere scusa quando sbagliamo e a mancare loro di rispetto? Mi ricordo una volta era venuta da me una mamma in colloquio, aveva chiesto un colloquio perché era letteralmente disperata perché nella relazione con sua figlia non sapeva più come gestirla. In che senso? Ha pianto più o meno un'ora, se non di più, in colloquio. Questa mamma continuava a dire: non so più che cosa fare, dottoressa, mi aiuti perché sono disperata. Mia figlia continua a massacrarmi di parolacce. E non c'è una volta che ritorna da me e si mostra pentita. Non c'è una volta che torna da me e mi chiede scusa. L'ho lasciata parlare per un bel po' di tempo. A un certo punto le chiedo: signora, lei quando parla a sua figlia, quando si rivolge a sua figlia, con che tono, con che modalità si rivolge? Questa signora si prende un attimo di silenzio, era rimasta basita davanti alla domanda, era una domanda semplicissima, basita perché a un certo punto mi dice: ma sa, dottoressa, adesso che mi fa questa domanda, mi sto rendendo conto che io faccio la stessa cosa nei confronti di mia figlia. E sa cosa le dico adesso che ho messo a fuoco questa cosa? Che nemmeno io, mai una volta, ho chiesto scusa a mia figlia. Ha capito al volo il messaggio. E alla fine mi dice, la prima cosa che farò oggi quando torno a casa sarà quella di chiedere scusa a mia figlia. Oppure un'altra volta un'altra mamma che mi racconta come in buona fede, non ho dubbi che l'abbia fatto in buona fede, a un certo punto mi dice, c'è mia figlia che è incavolata nera con me, sa perché, mi dice, ho fatto una cavolata nei suoi confronti. Io dico, cosa ha fatto? Chissà che cosa avrà mai fatto questa mamma, io pensavo, e mi dice, mia figlia a un certo punto mi ha fatto una confidenza molto personale. E io dentro di me dicevo, caspita, un adolescente che va dalla mamma a confidare una cosa molto personale, vi assicuro che è cosa rara, rara. E questa donna cosa fa? Racconta questa confidenza alla sua migliore amica, all'amica della mamma. E non contenta, mentre parla alla figlia, dice questa cosa alla figlia. Era prevedibile l'arrabbiatura della figlia. Perché? Perché si è sentita tradita, semplicemente tradita dalla mamma. E anche in questo caso la mamma non ha minimamente pensato che forse per far placare la rabbia della ragazza forse sarebbero bastate delle scuse. Magari no, ma io credo che molto probabilmente se la mamma avesse chiesto scusa alla ragazza, ma magari avrebbe anche la ragazza perdonato una mancanza di rispetto della mamma. E anche stavolta la mamma capisce al volo, ha fatto tutto lei da sola in modo molto intelligente e dice, sto mettendo a fuoco che molto probabilmente, è vero, ho fatto una cavolata, ma non ci ho pensato minimamente di andare da mia figlia e chiedere scusa. Non perdiamolo di vista, perché credo che sia fondamentale, perché noi ai ragazzi, ai nostri ragazzi, insegniamo sì con le parole, ma insegniamo anche molto con il comportamento, fungiamo da modeling, e se noi siamo i primi a sbagliare, pensiamoci bene prima di pretendere che loro non sbaglino nei nostri confronti. Così come quante volte capita di gestire una critica, so che il dottore Luca Velis vi ha parlato di riconoscimento, riconoscimento positivo, riconoscimento negativo, riconoscimento sul fare, sull'essere, è un po' la stessa cosa di quella che vi sto dicendo adesso. Come si fa a gestire una critica in modo costruttivo? Dicendo a una persona che ha sbagliato, distruggendola a 360 gradi, dicendo per esempio che porca miseria, anche stavolta hai sbagliato, ma sei un grandissimo deficiente. Questa è una critica positiva, costruttiva o distruttiva? Distruttiva. Accidenti se è distruttiva. E vi aggiungo anche questa cosa. State attenti a gestire una critica distruttiva con un adolescente, anche con un bambino, ma ancora di più con un adolescente, perché è devastante. Lo devastate dentro. Una critica costruttiva invece è una critica che va a colpire il comportamento. Abbiamo detto poco fa che è giusto accettare, lasciare libero di sbagliare, ma è anche giusto educare il ragazzo a capire perché ha sbagliato. E allora ci sta una critica davanti a un comportamento sbagliato, ma un conto è dire dare del deficiente a 360 gradi in modo sistematico alla persona, un conto è dire scusa, ma credo che nel gestire questa cosa, nel dire questa cosa, forse hai esagerato. Qui non state distruggendo la persona, qui lo state ponendo davanti a un comportamento che ha sbagliato ad agire. Questa è una critica costruttiva. Vediamo un po' più da vicino adesso quelli che sono i cambiamenti che vi ho citato poco fa. Partiamo da quello fisico. Faccio una premessa. Prima vi ho accennato la società, una società che sta là fuori, che sta qua dentro. Una società che oggi viene un po' definita adolescenziale, quell'adulto che si sente adolescente in eterno. Qualche settimana fa sono andata a sentire una conferenza di Vittorino Andreoli, non so se lo conoscete, è un noto psichiatra che è molto rinomato perché ogni tanto appare anche in televisione, ce l'avete presente? Quello con i capelli tutti per aria, eh? Ha fatto una conferenza vicino alla mia città, a Lecco era, e ha presentato, e l'aveva presentato il suo ultimo libro che si chiama L'uomo di superficie. Che cosa racconta in questo libro? Sta parlando della società adolescenziale, in sostanza, della società che rimane in superficie. E lui dice, ci siamo dentro tutti, tutti, nessuno escluso, tutti, in termini di l'adulto e il ragazzo che mira non più all'essere, che mira alla materialità, all'avere, e per quanto riguarda il corpo c'è un'ossessione morbosa, c'è un culto del corpo che porta la persona all'eterno giovanilismo, questo corpo che non deve invecchiare mai. Questa società sta fregando tutti, è vero che sta fregando tutti quanti. Ci siamo dentro tutti, è vero. Figuriamoci i ragazzi. Io dico, è giusto avere cura del corpo. Che caspita, ma certo, vuol dire volersi bene in sostanza. Tenerci un attimo a guardarci allo specchio prima di uscire di casa, vestirci in un certo modo, ad avere cura in sostanza. Un conto è avere cura. Un conto è essere ossessionati dal corpo che invecchia. Un'ossessione che a volte diventa patologica. Anche nei ragazzi, caspita. E qui se c'è fragilità, è molto più facile che un ragazzo si faccia fregare dall'ossessione per il corpo. Il corpo è assolutamente un mezzo di comunicazione, anche nella relazione con l'altro sesso o con lo stesso sesso, come relazione affettiva. Per quello che dico, hanno sacrosanto diritto i nostri ragazzi di ricevere dagli adulti un'educazione all'affettività, un'educazione alla sessualità. Poi questo concetto lo riprendo più avanti. Non entro nel merito dei cambiamenti fisici perché sono noti. Do per scontato che questa parte sia nota a tutti voi, quindi bypasso. Quali sono i cambiamenti mentali invece che intercorrono? So che la dottoressa Mara Staffiero un po' ve l'ha accennato, quando ha fatto un excursus dell'età evolutiva è arrivata più o meno fino alla preadolescenza, vero? Quindi vi ha parlato, vi ha citato, vi ha accennato anche questi cambiamenti. Che cosa succede nell'adolescente? Come struttura di pensiero. Gli adolescenti fanno di quei voli pindarici a livello mentale che sono una favola. E noi adulti ce li scordiamo, sti voli pindarici. Cosa vuol dire? Vuol dire che inizia l'età in cui l'adolescente pensa di cambiare il mondo davanti a un problema, davanti a una difficoltà, vuole stravolgere il mondo. Me li immagino gli adolescenti adesso davanti a questi problemi politici ed economici che stiamo vivendo. Vorrebbero fare mille cose, non come noi adulti che rimaniamo lì sulla sedia e tanto gli altri agiscono alle nostre spalle. No, l'adolescente vuole muoversi in prima linea, ha il desiderio di muoversi in prima linea, ecco perché poi entrano, e l'abbiamo fatto anche noi, ci siamo passati anche noi, non so se vi ricordate, quando in adolescenza si ha la voglia di entrare nei gruppi politici, nei gruppi sociali, nei gruppi religiosi anche, perché? Perché vogliamo essere in prima linea, abbiamo il desiderio di stravolgere. L'adolescente ha anche la voglia però di esporre la propria opinione e ci tiene un sacco a essere considerato un individuo con una testa, con un cervello che funziona, con delle opinioni personali. E invece che cosa si assiste certe volte? L'adulto che guarda l'adolescente sminuendolo, tanto è giovane, tanto è piccolo, dalla serie ma cosa vuoi sapere te che tanto non conosci il mondo, non conosci la vita. Io agli adulti che si comportano, che la pensano così, dico: guai a voi se azzittite un adolescente. Ben venga la diversità dal mio punto di vista nelle opinioni. Possono avere anche opinioni molto diverse dalle vostre, ma date la possibilità a un ragazzo o una ragazza di esprimere le proprie opinioni, anche perché se non gli permettete di esprimere le proprie opinioni, ma come fate a conoscere i vostri figli? Come fate a entrare dentro di loro? Come fate ad aiutarli a modificare quella struttura cognitiva quando diventa disfunzionale? Cosa vuol dire? Quando iniziano a pensare in termini catastrofici, che è tipico dell'adolescente. Davanti a un problema, spesso per un adolescente è o bianco o nero, per noi adulti invece ci dovrebbe essere in mezzo tutta una scala di colori, ci dovrebbe perché non sempre neanche l'adulto li vede questi colori in mezzo. Però l'adolescente è in difficoltà veramente nel vedere i colori. E se li azzittiamo, come facciamo ad aiutarli a smorzare quel senso di catastrofe che certe volte c'è nell'adolescente? Cosa succede invece da un punto di vista relazionale? Grande stravolgimento. Se avete in mente il bambino, scordatevi completamente quello che succede, perché nell'adolescente si inizia ad andare in subbuglio da un punto di vista relazionale. Cambia il rapporto prima di tutto con se stesso, cambia il rapporto con l'adulto, cambia il rapporto con i coetanei. Che cosa succede a quest'età? Succede un processo che in psicologia viene definito crisi di identità. Che parolona! A volte spaventa questa cosa. Per dire che cosa? Per dire semplicemente che un adolescente, quando arriva in questa fascia di età, inizia anche a strutturare dentro di sé un senso di identità personale che è fondamentale, fondamentale per diventare adulto. Senza un senso di identità, che razza di adulto poi dite che diventi quell'adolescente? Però, per strutturare quel senso di identità, inevitabilmente, passa attraverso un processo che si chiama di individuazione e di separazione. Cosa vuol dire? Concretamente è quando vedete l'adolescente che inizia a staccarsi dalle figure genitoriali, dai punti di riferimento ben saldi, vuol dire che inizia ad avere il bisogno di vivere le esperienze lontano dai vostri occhi. È quando l'adolescente incomincia a uscire di casa e non vi racconta dove va, con chi va, quando rientra della serie, ma cosa vuoi sapere te, tanto io sono grande, prende la porta e va. Ha bisogno di iniziare a vivere una serie di esperienze, e a volte, vi dirò di più, anche molto forti, per questo motivo qua, perché ha bisogno di strutturare dentro di sé un senso di identità. Quindi inizia in sostanza a identificarsi non più solo con i propri genitori e la propria famiglia, ma con altri modelli che ritrova fuori dalla famiglia. Ecco perché l'adolescente spesso inizia a vivere le esperienze di gruppo in modo molto diversificato. Se fino a ieri faceva parte solo di un gruppo, adesso l'adolescente inizia a variegare i gruppi. Magari inizia a frequentare dal gruppo dell'oratorio al gruppo della piazza, al gruppo che sta sulla strada, al gruppo eccetera eccetera. È necessario? Direi proprio di sì. Infatti ai ragazzi, quando ho modo di parlare ai ragazzi adolescenti, dico loro: guai a voi se rimanete in casa, uscite, perché avete il sacrosanto diritto di stare fuori con i vostri coetanei. E più l'adulto tira a sé l'adolescente, vi assicuro che quell'adolescente prima o poi inizierà a tirarvi di quelle gomitate metaforicamente che non ne avete idea. Certe volte arrivano i genitori dei ragazzi adolescenti che dicono: porca miseria, ma sa che mio figlio, mia figlia certe volte mi maltratta a parole in modo così cattivo che non lo riconosco più, e passa certe volte dal massacrarmi di parole e di insulti alla ricerca del bacio. A volte viene lì, mi sbaciucchia, mi abbraccia, ma è normale? A volte mi sento dire: ma dottoressa, è normale questa cosa? Cosa rispondo? Ma certo che è normale. È l'ambivalenza presente nell'adolescente. Prima abbiamo detto che l'adolescente sta nel mezzo tra la fase dell'adulto e del bambino, vuol dire che non è adulto, anche se vuole fare l'adulto, perché l'adolescente a volte si mostra così, non è adulto, lo sappiamo benissimo che non lo è. E quando vi cerca il contatto fisico, l'abbraccio, l'essere sbaciucchiati, eccetera, lì sta facendo il bambino, ma è normale che faccia anche un po' il bambino, ci sta, è assolutamente normale. È implicita anche nell'adolescenza quella che si chiama trasgressione. So che spaventa i genitori, anche se siamo stati adolescenti tutti quanti, vero, come abbiamo detto poco fa. E se vi dovessi chiedere chi tra i presenti, me compresa, non ha mai trasgredito in età adolescenziale, e aggiungo nella vita, alzi la mano. Probabilmente nessuno. Perché? Perché tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo trasgredito le regole. Perché? Perché l'adolescente non ha bisogno di regole, le rifiuta, eccetera, eccetera? No, perché l'adolescente ha bisogno di regole, e dopo vi spiego perché. Però rifiuta le regole dell'adulto perché ha bisogno di introiettarle dentro e di fare le proprie regole. C'era un mio docente di università che diceva, il professor Maggiolini diceva: non esiste adolescenza senza trasgressione, ovvero la trasgressione è implicita nell'adolescenza. Però io dico: c'è modo e modo di trasgredire le regole. Chi usa la testa, il ragazzo e la ragazza che sanno usare la testa, è vero che trasgrediscono comunque, ma sanno riconoscere il limite oltre il quale forse non conviene andare. L'adolescente che invece è fragile dentro, rischia di fare delle cavolate disumane certe volte. Quando dico è giusto che un adolescente esca e stia in gruppo, non sto dicendo che è giusto che stia nel gruppo negativo. No, perché lo sappiamo benissimo che esistono gruppi positivi e gruppi negativi. E quando il dottor Aceti la prima volta vi ha parlato di educazione alla prosocialità, condivido pienamente, iniziare quando i bambini sono molto piccoli a educarli alla prosocialità, alla relazione con gli altri, anche col fine di educarli a individuare quando un gruppo è positivo e quando un gruppo è negativo. Se voi andate da un adolescente a dire: guarda che quel gruppo lì è un gruppo negativo, non funziona, vedi di uscire perché non mi piace quel gruppo lì, ma voi pensate che riesca un adolescente a individuare che quel gruppo lì è negativo? Ma per favore, no. Noi da adulti lo vediamo, il ragazzo no, se non è educato a riconoscere che forse lì c'è puzza di bruciato e forse vale la pena girare i tacchi e andarsene. Quando però un adolescente rischia di rimanere incastrato da alcune situazioni negative? Quando? Quando è fragile, o meglio, quando ha un'autostima scarsa, quando non si sa dare un valore pieno a sé, è qui che rischia di fare delle cavolate. Se in un gruppo ci sono 10 ragazzi, 5 fumano o 5 bevono e gli altri 5 no, di quel 5 che non fumano o non bevono, poniamo che 3 hanno un'autostima adeguata e 2 scarsa. Vi assicuro che i 3 con l'autostima adeguata, di sicuro, se a loro non piace né bere né fumare, non si faranno travolgere dagli altri 5 che fumano e bevono. Perché? Perché non gliene frega niente e sono capaci di dire: non lo faccio perché non mi interessa. Non hanno la paura, cioè, di essere considerati, e passatemi il termine, gli sfigati della situazione. Gli altri 2 che hanno un'autostima scarsa, invece, nel giro di poco tempo, vi assicuro, che inizieranno a fumare e a bere. Perché? Perché la paura di essere ritenuti sfigati o la paura di rimanere da soli li spaventa a morte. Ecco perché quando si parla di educazione alla prosocialità vuol dire anche educare i ragazzi, anzi i bambini, a volersi bene, a stimarsi, a darsi un senso a se stessi degno. E questo vuol dire questo quando parlo di autostima adeguata. Cosa succede invece nel rapporto con i coetanei? E qui ci sono dei cambiamenti enormi. Se guardiamo i preadolescenti, gli adolescenti iniziano inevitabilmente ad avere delle attrazioni assolutamente verso i coetanei. E io dico, la sessualità oggi, a differenza di una volta, non è più un tabù, o meglio, non dovrebbe essere più un tabù. E io dico, i ragazzi hanno un diritto sacrosanto ad essere educati anche da un punto di vista sessuale e affettivo, in primis partendo dalla famiglia. È vero che poi c'è la scuola, è vero che poi c'è l'oratorio, è vero che poi c'è il gruppo sportivo, è vero che ogni tanto spuntano fuori gli psicologi e gli educatori che fanno educazione alla sessualità, eccetera, però prima di tutto fatevi trovare preparati. Sapete perché? Perché i ragazzi, io quando lavoro con i ragazzi e ho l'occasione di fare incontri di educazione alla sessualità, all'affettività, a me piace un sacco, perché mi piace un sacco lavorare con i ragazzi, ma mi piace un sacco perché vedo in loro una sete di sapere che è deliziosa, è bellissimo. Rotto il ghiaccio, nei primi istanti, è vero che c'è un po' di imbarazzo, certo, non sono, perché? Perché non sono abituati a parlare di argomenti legati alla sessualità, all'affettività, però rotto il ghiaccio iniziale, poi si lasciano andare e hanno una voglia di sapere e una voglia di condividere che è immensa. Hanno il diritto di imparare a gestire la relazione con l'altro in modo adeguato, il che si traduce in termini pratici nell'imparare ad avere rispetto prima di tutto per se stessi, rispetto per il proprio corpo e rispetto anche per l'altro, il rispettare i propri tempi e i tempi dell'altro. Non stupiamoci poi se quando guardiamo, a me viene la pelle d'oca alta così certe volte, quando leggo le statistiche e dalle statistiche deduco che il rapporto, il primo rapporto sessuale oggi negli adolescenti avviene anche a 14 anni. Mi viene la pelle d'oca alta così, non perché, appunto, io sono la prima a dire che la sessualità non è più un tabù, ma sono certa che da un punto di vista fisico e da un punto di vista psicologico, un ragazzo e una ragazza a 14 anni non è pronto, non è pronta per vivere una situazione così forte. Mi è capitato poche volte, per fortuna, nel mio lavoro, di sentire delle ragazze confidarmi in colloquio, ed erano ragazze di terza media, situazione di sportello psicologico a scuola, scuole medie, terza media. Alcune ragazze che arrivano mi confidano di aver avuto il primo rapporto sessuale a 13 anni. Ma la cosa più sconvolgente era che il bisogno di confidare a me, in quel caso, questa loro esperienza, era dovuto non certo a un senso di serenità, non l'hanno vissuto con serenità, erano angosciate dall'esperienza vissuta. Ed erano, in tutti quei casi che io ho visto, erano situazioni in cui la ragazzina, le ragazzine erano in sostanza ragazzine fragili e non sono state capaci di dire: fermati un attimo, io non sono pronta per vivere questa esperienza. Se avessero avuto più capacità nel dire di no, nel far rispettare i propri tempi, molto probabilmente avrebbero detto: no, non sono pronta, se vuoi è così, se no gira i tacchi e va da un'altra parte. A modi flash, cosa fare, come comportarsi con i nostri figli adolescenti? Ve li butto lì come stimolo, come provocazione, come riflessione anche. Non perdiamo la calma. Quante volte invece noi adulti perdiamo le staffe, perdiamo la calma, ci basta un niente, è vero. Possiamo essere già presi da un sacco di cose che ci riguardano la quotidianità, ma impariamo a non perdere la calma, ad affrontare anche le difficoltà con più calma. Prendiamoci il tempo per gestire quella situazione. Non partiamo con la mentalità perdente. Io mi arrabbio, vi assicuro, quando mi capita di parlare con gli adulti sapendo che ho a che fare con il mondo dei giovani, a volte mi sento dire: ma tu che lavori con i giovani, ma cosa pensi di questa gioventù qua che ormai non combina più niente? Come non combina più niente? A me non risulta che non combini più niente il mondo dei giovani. Io credo fortemente nel mondo dei giovani e vi assicuro che certe volte mi trovo davanti dei ragazzi che hanno risorse da vendere, da vendere. Aiutiamoli anche a volersi bene, vuol dire quello che vi ho detto prima, aiutiamoli a trovare il modo per sviluppare dentro di sé un senso di stima positiva. La maggior parte dei disagi psicologici ha come nucleo centrale una disistima. Se penso a tutti i disturbi d'ansia, se penso ai disturbi dell'umore, accidenti, è perché non ci vogliamo bene, è perché non ci sentiamo all'altezza, non ci sentiamo capaci. E allora forse vale la pena, sì, di aiutare i ragazzi a sviluppare, vale anche per gli adulti, di aiutarci e di aiutare i ragazzi a sviluppare un senso di stima più adeguata. Approfittiamo anche di quei pochi momenti di grazia. Cosa vuol dire? Vuol dire che se quando avevamo a che fare con i bambini, con i nostri figli bimbi, eravamo abituati a sentirci raccontare tutto o quasi tutto, perché anche i bambini non raccontano tutto, ma quasi tutto sì. I bambini vanno, escono, fanno le esperienze fuori, poi quando vengono a casa muoiono dalla voglia di raccontarsi il più delle volte. E ogni momento si può dire, non dico che ogni momento è buono, ma molti momenti sono buoni per parlare con i bambini. Scordatevi, letteralmente scordatevi questa cosa quando avete a che fare con gli adolescenti. Una volta una mamma viene da me in colloquio e mi dice: io non riesco più a parlare con mia figlia, accidenti, e la cosa mi fa enormemente arrabbiare. Dico: perché la fa arrabbiare? Perché pretendo che mia figlia mi racconti tutto quello che vive fuori di casa. Io dentro di me dicevo: quella mamma qua forse non ha capito che sua figlia è adolescente ormai, no? Poi a un certo punto dice nel racconto: capita soltanto quando vado a prenderla a pallavolo, perché la figlia giocava a pallavolo, quindi la mamma andava a la portava agli allenamenti e poi andava a prenderla agli allenamenti, e mi dice: solo quando vado a prendere gli allenamenti di pallavolo, sale in macchina, siamo soltanto noi due sole in macchina, lì parla. E io penso: ops, lì parla. È bastato, vi assicuro, è bastata la mia espressione del viso per far sì che quella mamma si fermasse e capisse che a un certo punto mi dice: ah! E fa: ah! Ha fatto proprio così. Dottoressa, ho capito cosa mi sta dicendo. In quel momento mia figlia mi permette di entrare nel suo mondo e io le dico: bravissima, bravissima. In quel momento sua figlia le sta concedendo quel momento di grazia. E quando abbiamo a che fare con gli adolescenti, ripeto, scordatevi che ogni momento sia buono. Dobbiamo essere noi adulti però, essere capaci di avere le antenne alte per captare quando l'adolescente ci permette, ci dà il permesso di entrare. Perché se ci perdiamo l'occasione, sono fatti nostri poi. Prendiamoli sul serio anche i ragazzi, vi assicuro che si arrabbiano tanto quando capiscono che l'adulto che gli sta davanti non lo sta prendendo sul serio, perché a volte nell'adulto scatta il pensiero del tipo: ma sì, dai, su, sei giovane, cosa vuoi che sia, come vi dicevo poco fa, si sentono sminuiti e vi assicuro che questo crea rabbia. E non solo, frustrazione. Io se penso a quando ero una ragazza, quando ero adolescente, diventavo una iena quando mi accorgevo che l'adulto mi stava sminuendo. Proviamo anche a non giocare a braccio di ferro con gli adolescenti. Cosa vuol dire? È tipico dell'adolescente opporsi. E più lo prendiamo di petto, porca miseria, più l'adolescente si oppone. Ma io dico: ma porca miseria, ma è l'unica strada per arrivare all'adolescente? Ma conosciamo solo quella strada lì? Proviamo, anziché prenderlo di petto, prenderlo di lato. È vero, è una strada più lunga. Ok, ma se mi porta all'obiettivo, forse vale la pena. Se devo far passare un messaggio a un adolescente e parto da lui, dall'adolescente, ma che cosa mi aspetto? Mi aspetto una bella difesa, una bella barriera su in alto. E questo capita anche all'adulto a volte, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e quindi l'adulto si difende. Capita anche a noi. E allora dico: ma se abbiamo un messaggio da passare a quel ragazzo, ma non possiamo passare, partire da un altro punto per arrivare lì, partire da lontano magari? Forse, forse magari gli permettiamo di non difendersi così a spada tratta. Altra cosa, non dimettiamoci mai dal nostro ruolo di genitori. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo dei punti di riferimento, vuol dire che siamo noi punti di riferimento che capaci di dare delle regole. E vi assicuro che gli adolescenti hanno bisogno di regole. Mi ricordo una volta un ragazzo, e me lo ricordo come se fosse ieri, sono passati anni da quando ho visto questo ragazzo, era un ragazzo di 14 anni e una volta viene da me, aveva una situazione familiare a dir poco devastata. E questo ragazzo un giorno viene da me, era arrabbiatissimo e mi dice: dottoressa, lei mi spiega per favore perché a casa mia nessuno, e dico nessuno, mi chiede dove vado quando esco da quella porta, a che ora entro, a che ora rientro poi di sera. Nessuno a casa mia mi chiede nulla. Cosa vuol dire? Vuol dire che stava cercando delle regole che però in quel contesto familiare non c'erano, perché i genitori non erano in grado di darle. Questo però per dire come, anche se le rifiutano, come dicevamo prima, perché scatta la voglia di opporsi, non vuol dire che non hanno bisogno di regole, le hanno, le desiderano, hanno bisogno di regole. Certe volte però noi genitori incominciamo a fare degli errori del tipo ci facciamo fregare da quel senso di dovere della serie: devi fare questo, oppure non devi fare quello, devi fare questo. E io certe volte davanti a sti atteggiamenti dico: ah, non ne posso più, mi immagino, mi immedesimo nel ragazzo adolescente e dico: ah, oddio, vorrei scappare via da questa situazione. Ma c'è solo quel modo di parlare: devi, non devi, devi, non devi. Proviamo magari certe volte a girare la frase, anziché parlare di dovere, proviamo anche a sottolineare quella che può essere la nostra coscienza educativa anche. Non posso, da genitore, da mamma, da papà, permetterti questa cosa. L'altro giorno è venuta una mamma, ero a scuola, in una delle scuole in cui lavoro, e a proposito della doverizzazione, arriva questa mamma e mi dice: prima di uscire ho chiesto a mia figlia, ho detto a mia figlia, sto andando dalla psicologa, la psicologa della tua scuola, che cosa le dovrei dire alla psicologa? Io dentro di me dicevo: ma io se fossi la figlia di questa signora qua le direi: ma vedi un po' tu che cosa, visto che ci stai andando tu, vedi un po' tu che cosa dirle alla psicologa. Ma la figlia dà una risposta e le dice: ma magari di alla psicologa che tua figlia ha una mamma che non fa altro che dire devi, non devi, devi, non devi, devi, non devi, e dille anche che tua figlia è esasperata. Questo me l'ha detto alla fine del colloquio. E vi assicuro che in tutta l'ora del colloquio non avevamo fatto altro che lavorare su questo punto, e alla fine la signora dice: caspita, ma la risposta del mio disagio che vivo con mia figlia me l'ha data anche mia figlia prima di uscire di casa. E io dico: esattamente. E se forse quindi imparassimo ad ascoltare un po' di più i nostri ragazzi, forse riusciremmo anche ad avere sotto agli occhi determinate risposte. Impariamo quindi ad ascoltarli, ma ascoltarli però vuol dire anche senza fretta. È vero che la vita, abbiamo una vita frenetica, ormai tutti, è pienissima la nostra giornata, però io sono convinta che non è tanto la quantità di tempo, non dobbiamo sempre essere lì pronti, disponibili ad ogni chiamata, non è questo, non vuol dire fare il tappetino della situazione, vuol dire essere assertivi, vuol dire essere capaci di dire: guarda, adesso non ho tempo, però che ne dici fra 2 ore, quando ho finito di fare sto lavoro, ci ritagliamo il nostro momento. E allora sì che possiamo essere disposti ad ascoltare. Dico anche, qualche volta però impariamo magari a chiudere qualche occhio, o vogliamo fare i carabinieri continuamente. Così come impariamo a essere credibili, perché vi assicuro che i ragazzi non sono stupidi, non sono ciechi, perché se noi diciamo determinate cose e poi il nostro comportamento va da tutt'altra parte, vi assicuro che questa cosa passa ai loro occhi. E vogliamo essere credibili? Certo che no. Altro suggerimento: prima di parlare, vediamo di collegare i nostri neuroni con la nostra parola. Lo so che certe volte si perdono le staffe e vengono fuori di quelle cavolate certe volte dalla bocca, però rispetto a quello che dicevo prima della gestione delle critiche, vi assicuro che una critica distruttiva è devastante. È vero, abbiamo detto che non esiste nessuno di perfetto. So che Mara parlava di, vi diceva, non esiste il genitore perfetto, non esiste l'insegnante perfetto, non esiste il figlio perfetto. È vero, è un dato di fatto. Quindi, dovesse capitare di buttare fuori dalla bocca una serie di cavolate distruttive, proviamo a rimediare. Ci fermiamo e magari chiediamo scusa e recuperiamo la relazione. Vuol dire anche comportarsi in modo adeguato con gli adolescenti, vuol dire con i ragazzi in generale, vuol dire imparare a essere autorevoli, che non vuol dire quindi né essere autoritari né tantomeno essere permissivi. L'autorevole è colui che sa essere fermo al punto giusto. Concludo con un augurio. Vi auguro di vivere il ruolo da genitori con la passione. Vi auguro di sentirla sempre viva dentro di voi e vi auguro anche di avere un atteggiamento, e qui riprendo un termine che so che il dottor Avellis ha utilizzato, un atteggiamento di stupore. Non solo di fronte ai vostri figli, mi permetto di dire di fronte alla vita.